drei Referate zu besprechen. Quanto tempo abbiamo per la discussione, Paolo? Eine Stunde. Eine Stunde. Prego. Adesso. Vale. Vale Galuzzi. Galuzzi, sì. Vorrei intervenire sulla congregazione del professor Certamente è da condividere il pensiero del professore quando accosta la visione di Yedin e quella di del Sarpi in un evolversi di due ecclesiologie. Senza dubbio sono due ecclesiologie che però sono l'una basata sul conciliarismo, e penso che il Sarpi sia uno degli ultimi esponenti. L'altra invece è basata su un concetto più tradizionale, diremo di Chiesa. Perché dico questo? Perché l'osservazione che lei ha fatto attorno alla Riforma Cattolica, non valutata dal Sarpi, è pienamente comprensibile. Se si legge il tipo di riforma come è stata intellettualizzata alla fine delle discussioni precedenti. Cioè, se si ipotizza una riforma dove ci sono i due elementi antitetici quasi o correlativi, dove si cerca da un lato la cattolica riforma, la riforma cattolica, e dall'altra la controriforma, senza dubbio questa linea del Sarpi non lo si trova, perché aveva già una sua linea ecclesiologica, che non la individuo però nel senso di Chiesa in quello che lei ha enunciato come substrato di Chiesa, gli abusi che venivano presentati in quel tempo. Voglio dire, quando lei ha annunciato certi elementi che, sui quali ci si poteva vedere un'ecclesiologia, che poi al Concilio di Trento erano visti come abusi, certamente non è in quella linea il Sarpi, però è nella linea conciliarista. E allora, se nella linea conciliarista, cosa c'è? Anche lì c'è un'esigenza di riforma, in modo diverso. E forse se si riconduce il discorso a questo genere di riforma, cioè non intellettualizzandola ma vedendola proprio nella fattispecie degli uomini, allora forse lì si trova la vera genesi e soprattutto il vero Yedin. Perché dico questo? Perché io comprendo quando si può vedere in linea di ipotesi, di teoria, una distinzione e quindi vedere una ricerca sulle persone in chiave di riforma soltanto in maniera o di riforma cattolica o di controriforma. Ma quando vediamo degli studiosi che studiano, il Gaetano d'Achiene, ad esempio, lo studiano in chiave di riforma. E allora non sono quelli che piccoli che sprigionano la reazione laica, come è stato detto riguardo al Pasquini, ma sono quelle ricerche che mancano alla tradizione laica e che forse la tradizione laica non riesce a studiare, perché nascono all'interno di forme di religiosità e di esperienze che sono proprie della Chiesa. Quindi il concetto di riforma nell'idea che c'era in quel tempo, se viene smussato dal lato intellettuale, forse la si vede più semplice, diremo di gruppi, ma che ha anche una vivacità maggiore. Un altro fatto che mi ha colpito: Yedin cresce quando Sarpi decresce. Forse è stato lo spauracchio della storia precedente che serviva come confronto, poi decresce. Io ho notato questo, siccome ho potuto nella rifusione che ho fatto del libro del Cristiani studiarmi un po' il concilio più nelle fonti vaticane che nella lettura del Yedin, mi sono accorto di questo, che l'ultimo volume, cioè il quarto, è meno ricco di fonti vaticane. Cioè ho visto un Yedin più maturo dal lato di pensiero, meno ricercatore. E questa è un'impressione che forse, non dico per carità, nel senso di morire minimamente la memoria di questo grande storico, ma forse il quarto volume, cioè il terzo periodo di Trento, nella linea della, della storia del reading, se un domani ci fossero dei ricercatori che gli danno il supporto più nutrito di ricerca, diremmo archivistica, soprattutto vaticana, delle fonti, forse potrebbe essere migliorato. Rispetto a quello che si vede, l'uomo maturo, si vede lo storico che ha raggiunto ormai una sua linea, quindi cresce e decresce la visione dell'altro, ma manca, diremmo, il tessuto che forse e per l'età e per le condizioni non ha potuto, del quale non ha potuto usufruire di fonti più specifiche. Gerade zu Ihrem letzten Punkt. Jedin hat mir wiederholt in Privatgesprächen von dem vierten Band gesprochen. Und er war sich durchaus der Bruchstückhaftigkeit bewusst. Er hat mir immer wieder gesagt, wissen Sie, ich stehe oder stand vor der Frage, soll ich den Band noch bringen? Bruchstückhaft mit all dem, was fehlt, was ich weiß oder gar nicht. Und meine Darstellung bleibt dann Torso. Und da hat er sich, und meines Erachtens, ich habe ihm damals auch zugeredet, mit Recht entschieden, ihn zu bringen, in dem Bewusstsein, er sagte, er wusste, er hätte auch nach Spanien noch Archivreisen machen müssen und alles Mögliche, das war in dem Alter nicht mehr möglich. Und diese Grenzen kannte er aber. Und Sie haben durchaus recht, ich meine, ich merke jetzt auch bei dem Traktatenband und dem Material, das ich erarbeite, dass da manches übersehen worden ist, aber Jedin war sich dessen bewusst nicht. Er hat eben diese Alternative wohl mit Recht gewählt, nicht, dass es abgeschlossen ist. Professor Forgiani. Ma il professor Wandruschka ha detto che l'intervento del professore Uriani ci avrebbe fatto discutere molto. Penso che queste vindice sarpiane di Uriani non possono lasciarci indifferenti. Devo dire tuttavia che con la riserva di una più attenta riflessione ho qualche difficoltà a seguirlo. Rifacciamoci per esempio a quegli articoli di Esos, quelli che Lucio chiamava alcuni strombazzati articoletti che avrebbero servito a demolire i sarpi. E Lucio, in quell'articolo di replica, riverificava certi presunti errori di Sarpi che Jesus gli rinfacciava. Ma, dire la verità, in realtà, su questo terreno si può andare anche magari molto in là, però o contro la serietà documentaria di Sarpi, ma ho l'impressione che non si esce in fondo dall'impostazione di Pallavicino. In fondo già Salvatorelli aveva detto che noi possediamo una sola, non esisteva la storia di Edina, noi possediamo solo una unica storia del Concilio di Trento, che è quella di Sarpi. Abbiamo una recensione tre volte più lunga che dell'attacco di Pallavicino. E vi ricordo che questo tipo, su questa presentazione di Salvatorelli, ci andava anche Chabot in realtà, che aggiungeva in fondo, fino ad oggi noi non abbiamo una ancora, eravamo negli anni subito dopo la guerra, non abbiamo ancora un'altra vera storia del Concilio di Trento. Ce la darà forse Jedin. Ora, questa storia del Concilio di Trento oggi c'è, è quella effettivamente di Jedin. A questo punto sorge la domanda, ecco, indubbiamente potrà essere filologicamente anche proficuo questa verifica, questa scoperta, questa individuazione migliore delle fonti e del trattamento delle fonti da parte di Sarpi. Ma il problema di fondo è quello, me lo domando proprio, è quello che ha posto Janic, una diversa ecclesiologia o da un punto di vista di uno storico, diciamo tecnicamente laico, insomma, è il fatto che è un altro modo di fare storia, un tipo di storia che si allarga su degli orizzonti immensamente più larghi, cioè non controvertistici, una storia che si apre sulla piazza dell'orizzonte politico, quella che qualifica la diversità della storia di Concilio di Trento, di Yedin rispetto a quella di Sardi. Ecco, mi domando se una sorta di reductio teologica in fondo all'ecclesiologia rende il senso della diversità fondamentale, nuova, moderna, della storia del Concilio di Trento di Yedin, o se invece questa sottolineatura della connotazione teologica di fondo è sufficiente. Cioè mi domando se, andando su questa strada, non vorrei esagerare e far dire a Bianchi quello che non ha detto, non si resta in fondo prigionieri ancora di una storiografia controvertista. Grazie, professor Bolgiani. Dottor Nicolò. Quello che non ha detto il Sardi nei confronti del Concilio di Trento, però messo a racconto con quello che non ha detto Yedin nei confronti di Sardi, non so a quale questa bilancia però su quale peso correrebbe. Solo che io volevo rifarmi un po' questa mattina un po', però il positivo e l'induttivo è stato detto all'inizio, e avevo fatto riferimento al concetto di riforma. Io ho un'allergia nei confronti del concetto di riforma, nei confronti sulla base di tutta una cultura che mi sono formato 50 anni, sono stati 50 anni fa. Per me riforma ha finito sempre col significare, e credo che tutta la metà del 1900 l'abbia testimoniato largamente, due guerre mondiali, due dittature, un totalitarismo e così via. E anche recenti affermazioni germaniche nei confronti della cultura germanica e lo stesso lucianismo che lo si è fatto passare recentemente come non volontà di potenza ma volontà di pace, credo che non abbiano questo quadro. E credo quindi che ci sia quindi una difficoltà, ecco, di recensione proprio in termini commentari, perlomeno nella cultura italiana, tenuto conto di quello che ci sta alle spalle, non di quello che c'è oggi, che è completamente diverso. Non credo però che questa allergia nasca dalla cultura cattolica, questo lo escludo. E il lavoro di Yedin credo che sia abbastanza chiaro, però io ho fatto anche esperienze dirette con il mondo protestante durante la guerra e non ho trovato gli esempi del mio concetto di riforma, che è esattamente l'opposto, ma invece l'ho ritrovato in uomini che erano figli di religiosità e che vivevano l'equivoco di questo concetto di riforma. Però credo che sarebbe interessante vedere la cosa anche da questo punto di vista. Comunque, l'induttivo di concetto induttivo, io lo vorrei, è un interrogativo, richiamare da due punti di vista. Innanzitutto, se l'onda dello storico, questa originalità della storia del Concilio di Trento così chiara, così limpida, vero? L'opera di uno storico, quando è autentica, può essere esaminata come si esamina un capolavoro d'arte, cioè dice di più di quello che l'autore intendeva forse dire. E allora, all'interno dell'opera ormai in atto, possiamo noi trovare gli estremi per un testamento, chiamiamolo così, interferiale, spirituale dello Yedi, per un messaggio dello Yedi al mondo religioso, non è vero? E quindi prospettare la possibilità di nascere di una scuola di Yedi, scuola storica dello Yedi, non è vero? C'è un altro fatto positivo dell'intuitivo. Il Vaticano II ha visto il mondo interferato da tutti i continenti. Nasce un grande interrogativo: chi ha operato la semina giovane? La mia risposta è precisamente il Concilio di Trento. Ma allora il Concilio di Trento non si riduce deve essere visto come il luogo di formazione dei seminatori. Sarebbe quindi uno un trarre dalla presentazione dello Yedi tutti i demi per passare oltre e far nascere una scuola Bitte. Grazie. Ma dobbiamo stare attenti, abbiamo tanti problemi da discutere e non andare più fuori dal. Vediamo ancora se ci sono ancora, c'è già una generale stanchezza. Allora, forse ancora una parola, se proprio non c'è altro, io un po' di sicuro perché ho parlato molte volte, perciò. Ma da un lato vorrei forse esprimere un sentimento di parte, come per esempio quello che ha accennato Bolzani a proposito della relazione di Giuliani. Io lo direi così, io ho l'impressione di in qualche modo due parti fortemente distinte, a dir poco, tra di loro. Una che mi, che forse ci, aveva involosito su una serie di osservazioni puntuali che mi sembrava di grande utilità. Poi improvvisamente una svolta e invece l'enunciazione che alla fine il confronto è del tutto in fondo pleonastico, superfluo, perché non si tratta di due appunto e qui cosa si tratta, io ancora non l'ho capito bene, vorrei che mi spiegasse, perché a un certo momento ho capito che lui dicesse che non si trattasse di due entità omogenee perciò tra di loro confrontarsi, ma in realtà lui ci ha parlato di due ecclesiologie. Per sé due ecclesiologie sarebbero confrontabili, ancorché non componibili eventualmente. Ma io ho il sospetto che perlomeno una, ecco, quella di Yedin, non sia francamente un'ecclesiologia. Credo proprio che sia tutto meno che un'ecclesiologia. Non per tornare su quello che si è detto stamattina, sul quale mi sembrava ci fosse un certo consenso, cioè che certamente lo storico Yenin, come tutti noi e tanti prima e dopo di lui, aveva delle, come dire, delle precomprensioni, aveva dei motivi ispiratori, ma fare di questi semplicemente o dei preconcetti, se riferiti ad una ricerca storica, o semplicemente delle linee ecclesiologiche intangibili, e cioè tali da non modificarsi, da non essere modificate rispetto ai fatti, allora ecco, mi sembra che francamente io rimango per un attimo sconcertato. Mi sembrava che la linea quando si muoveva a Poniano sul problema ha a lungo turbato, è pleonastico guardare al passato, della ricostruzione che Yedin fa della traslazione. Io condivido che poniamo su quel punto la Yedin, a me sembra, come forse a Uliani, sia reticente sulle responsabilità che non si fermino ai legati ma vadano sino a Roma. Chiaro che questo tocca una delle grandi tesi sappiane sullo spirito che viaggia nella valigia dei corrieri, ma ecco, mi sembrerebbe più fecondo rimanere su questo terreno puntuale che non così in qualche modo librarsi su un punto, su un orizzonte talmente ampio che mi sembra in realtà. Poi dopo, ecco, farci passare dall'analisi storica, che certamente è il tema del nostro incontro di oggi, la relazione di Yedin, a qualcos'altro che non riesco più bene neppure a classificare. Un accenno solo perché sto parlando all'esposizione di Brandmüller, solo per ricordare che in quell'elenco che lui ci ha cortesemente riepilogato di momenti di impegno di in ordine alla storia dei concili, forse è giusto inserire anche la sua collaborazione, tutt'altro che formale, alla formazione di quel volume di decisioni dei concili ecumenici che ha implicato decine di ore di riunioni comuni con Yedin e di discussioni, come ricorda certamente anche Paolo Prodi, molto impegnative, molto accese e io credo molto feconde, sulla determinazione non in astratto ma in concreto di che cosa fosse un concilio, di quali fossero le sue decisioni e via di questo passo. E a questo proposito anche l'accenno si sfuma, anche l'accenno col quale proprio Brand Müller ha esordito, e cioè quell'accenno perfettamente verificabile della, come dire, istintiva allergia di Yedin nei confronti di Hans Küng, a quel proposito che lei ha ricordato e a molti altri. Ce ne traccia nelle conversazioni con molti di noi, negli scritti, non è perciò una novità. Ma anche qui, se si esce dall'astratto e si va al concreto, le sorprese non sono prive di interesse, perché proprio quando usciva il volume di Küng che faceva quella forte, forse eccessiva, rivalutazione delle decisioni di Costanza e di Basilea, in quelle medesime settimane, per un itinerario completamente diverso, usciva appunto il volume dei Conciliorum e Comunicorum Decreta, che per la prima volta nelle pubblicazioni di questo genere inseriva a pieno titolo tutte le decisioni di Costanza e tutta la prima parte delle decisioni di Basilea tra i concili ecumenici, che erano esattamente le conclusioni a cui arrivava con un altro tipo di argomentazione, secondo me molto più fumosa e molto meno conclusiva, Küng, sul piano teologico. Perciò ecco che poi sul piano concreto forse ci sono maggiori contatti di quel che non appaiono. Un istante, se posso inventermi, siccome toccava a me editare Costanza, ho discusso con Yedin l'inserzione dell'ex santa, e quindi Yedin era perfettamente d'accordo sull'inserzione, e proprio così, sì, non è stata una cosa.